ciò, alcuni scienziati se ne sono usciti ormai dal seminato e sono arrivati sulla Luna. Altri tengono spaventata l'umanità con le loro birichinate atomiche. Sì, mi rispose, seguendo il tono scherzoso, ma nessuno di loro, gattoni, potrà arrivare molto lontano. Nostro Padre Celeste li custodisce amorosamente dall'alto e se si allontanassero un po' troppo, li prenderebbe affettuosamente nelle braccia e li riporterebbe nel loro primitivo recinto. Lui li lascia giocare e cacciarsi nei pasticci, delle volte pericolosamente, per rispetto alla libertà umana che egli diede loro. Sì, meglio fare un primo pit stop, perché qui abbiamo un'indicazione importante per quanto riguarda le pretese prometeiche, ecco, e folli dell'uomo, come dire, sedotto e rapito dalla scienza, con l'H finale ovviamente, quindi nel senso di chi si pensa che la scienza, ecco, parola oggi a cui si deve venerazione, adorazione assoluta, mentre a Dio non si rende praticamente più culto in nessun mondo, quando si nomina la scienza, spegniamo la luce, insomma, no? Perché questi si pensano di essere, ecco, per alcune, per carità, cognizioni, il progresso scientifico è un fatto reale, noi sappiamo molte più cose adesso che anni addietro e con un sufficientemente grado anche di certezza e di incontrovertibilità. Stiamoci sempre calmi, perché nel senso qui Teneramata sta dicendo che nessuno potrà arrivare molto lontano e che quando qualche scienziatello si mette a fare qualche giochetto un po' pericolosetto, e adesso ne stanno facendo non pochi, detto fra me e voi, per un po' nostro Signore li lascia fare per rispetto della loro libertà e li lascia cacciarsi nei guai, come dice qui, pericolosamente. Dopodiché a una certa, dicono a Roma, dice stop. E ti riporta nel recinto dove sei stato messo. Quindi con questo, ecco, chi ha orecchi per intendere, intenda, ecco, perché, per carità, la scienza di per sé è cosa buona, ecco, il progresso sotto tutti i punti di vista di per sé è cosa buona, fermo restando che se ne faccia poi un uso consono e conforme alla legge di Dio, come tante volte ho detto. Questi strumenti che noi utilizziamo, come dire, come canali di evangelizzazione, per me che li uso, come dire, in sorgente in questo modo e per chi li riceve in destinazione in questo modo, viva Dio, no? Ma sappiamo bene che l'uso largamente, più largamente diffuso di questi strumenti non è proprio sempre del tutto positivo e conforme alla legge di Dio, no? Procedo con la lettura. Potrebbe il viatore uscirsene lecitamente dalle limitazioni di queste transenne provvidenziali? Dice, possono svicolare ogni tanto? Certo, molti ci riescono se questo serve loro per raggiungere il cielo. Basterebbe che il cristiano mortale, stando in grazia di Dio, lo chiedesse al Signore con autentica sincerità, umiltà e perseveranza. Non per egoismo né per curiosità malsana, che rivolgesse la sua preghiera di petizione in spirito e verità, con la fiducia filiale che il nostro Padre lo ascolterà efficacemente. Tu stesso ne sei testimone in questo paratempo. Sì, risponde Riccardo, ma Dio ha tardato più di 20 anni ad ascoltare la mia petizione di conoscere qualcosa della vita futura. Ma finalmente lo hai ottenuto, gli risponde. Non ne sei contento? Dai più importanza al tempo trascorso? Avresti preferito che il Signore ti avesse ascoltato immediatamente, malgrado i tuoi peccati di allora, che non ti avrebbero consentito di ricevere l'azione divina? Il nostro Dio, aggiunse per convincermi, è lento nell'attuare, ma non per sua volontà, ma per la pigrizia morale del viatore. Nonostante tutto, non potrai negare che lui ti ama, e ti ama moltissimo, già che alla fine ti accordò il tuo capriccio. Ma se tu avessi progredito nella perfezione cristiana, già da molto tempo sapresti tutto questo che oggi ti dico. Qui, amici miei, potremmo starci fino a mezzanotte su queste considerazioni, molto belle. Allora, possiamo farci arditi nella preghiera anche uscendo dai limiti in cui ci ha messo nostro Signore? Tenente Amato ci dice sì, e Riccardo l'ha fatto. Riccardo ha detto al nostro Signore: ti prego, fammi conoscere qualcosa della vita futura. Attenzione, domanda fatta sicuramente non per egoismo. Attenzione, ci sono delle condizioni. Non per egoismo, né per curiosità malsana. Quest'uomo non è che voleva andare a curiosare sull'aldilà, ma voleva in qualche modo avere un ulteriore, come dire, sigillo su una fede che già c'era, che rafforzasse, come poi gli dice molte volte Tenera Amata, le sue convinzioni pratico-operative. E non l'ha ottenuto subito a causa dei suoi peccati di allora. E se tu avessi progredito nella perfezione cristiana, da mo' che sapresti tutte quante queste cose. Qui non si capisce se lo intende nel senso che questa esperienza che sta facendo sarebbe accaduta prima, o addirittura che senza bisogno di questa esperienza, grazie a una elevato grado di perfezione e quindi di luce soprannaturale, avrebbe potuto acquisire conoscenze non molto dissimili da quelle che stava adesso acquisendo in modo straordinario. Non si capisce bene, almeno al momento. Vediamo se poi, continuando la lettura, si chiarifica. No? In ogni caso, quello che sta dicendo, la cosa più importante è farsi santi, tendere con risolutezza alla santità. E un'altra cosa molto bella è che il Signore che ci ama tanto, se abbiamo qualche capriccio santo, quindi non malsano, lo soddisfa. Lo soddisfa. Possiamo farci audaci nel chiedere questo nuovo punto di contatto, perché conosce la divina volontà con la divina volontà. Perché nella divina volontà sappiamo benissimo che Dio addirittura gioca con la sua creatura, si diletta, si trastulla e gode nel vedere la creatura che gioca con lui, che si trastulla e che viene sorpresa dalle sue nuove invenzioni d'amore. Provate, perché io veramente, personale esperienza, delle volte dico al Signore, dico, ma non è che starò facendo una cosa che non va bene, ma io ti ringrazio anche di questa piccola cosa che mi è arrivata, questa piccola soddisfazione terrena, questo piccolo desiderio esaudito. Un ultimo è arrivato l'altro ieri. Cioè, dico, ma siamo sicuri che io ti posso? Perché almeno io la percepisco così. Cioè, dico, ma facciamo fatica noi a pensare che Dio possa, come dire, esaudire un nostro desiderio lecito, ovviamente, però di piccole cose che ci danno qualche piccolo diletto in questo mondo. Ci sembra che lui non si piega dall'alto. Dice, vabbè, mica gli ho detto di farmi diventare un grande santo, mica gli ho detto di, che ne so, di farmi diventare un po' meno impaziente. Cioè, questa sicuramente è una preghiera che il Signore pensiamo che almeno l'ascolti poi. Ma se io ho un desiderio e mi viene esaudito, un desiderio. Quei pochi che possiamo avere, no? Oppure tutti i maestri di spirito dicono di non chiedere mai al Signore esperienze soprannaturali, dirette, no? Infatti lui non è che gliel'aveva chiesto, lui gli aveva detto dammi soltanto la possibilità di conoscere un po' meglio ciò che accade, ciò che ci attende nella vita futura. Riprendo la lettura, amici, dall'ultimo capoverso. Ma se tu avessi progredito nella perfezione cristiana già da molto tempo, sapresti tutto questo che oggi ti dico. E se tu ancora, senza essere un perfetto cristiano, non lo è neanche adesso, stai ottenendo un singolare aiuto divino, quanto di più otterranno se si impegnano quelli che amano davvero il loro creatore e credimi che realmente lo ottengono. Tu non puoi immaginare gli aiuti e i regali del nostro Dio a coloro che in questa vita lo servono e lo amano sul serio. Numerosi mortali che prendono sul serio il Signore ottengono da Lui regali più pregevoli di quelli che tu stai ricevendo. Di queste cose se ne parla assai poco, essendo doni privati, oppure perché il beneficato non riesce a spiegarli. Io vi posso dire da sacerdote che quello che dice Tere Lamata è verissimo. È verissimo. Noi pensiamo sempre alle esperienze mistiche come cose straordinarie, no? Che ne so, il veggente che riceve il messaggio e poi deve diffonderlo, e poi c'è il segreto su questo, su quell'altro, no? Oppure la grande estasi, alla tipo Santa Teresa, no? Non ci sono soltanto queste cose. Ci sono una montagna di piccole carezze soprannaturali, piccole, medie o anche grandi, che il Signore dona alle anime. Un prete sa qualcosa perché glielo raccontano. Ma trattandosi di cose molto personali e molto private, non bisogna raccontarle in giro, perché sono i segreti del re. Oppure a volte si fa fatica a spiegarli, oppure ci si rende conto, e assicuro, che se si raccontasse una cosa di questo genere anche a una persona credente si sarebbe presi per pazzi, o per fuori di testa, o per visionario, o per come dire, roba del genere. Cioè, Dio ne fa una montagna di chi che ne farebbe molte di più, sappiamo dai libri di cielo. Il Signore ci straricolmerebbe di bene se trovasse in noi le disposizioni per poterlo ricevere. Prima cosa è prendere Dio sul serio, sul serio. Servirlo e amarlo sul serio. È chiaro che non riceverà assolutamente nulla da Dio. Chi lo ignora, chi non lo serve, chi non lo ama, chi lo trascura, chi lo disprezza, chi lo bestemmia. Non riceve niente da Dio. Se non gli aiuti necessari a raggiungere la salvezza e a mantenersi nell'essere in questo mondo. Questo Dio li dà a tutti. Ma le chicche non sono riservate a grandi santi, chissà. Dice, tu non sei un perfetto cristiano, già stai ricevendo questa cosa grossa. Presumibilmente, però, questo era un cattolico che ci provava ad amare e a servire un pochino il Signore. Se l'umanità attuale, riprendo a leggere, soffre molto, è perché la superbia non le permette di chiedere il rimedio dell'Altissimo. Guardiamoci in giro, guardiamoci intorno. Soffre molto l'umanità? E chi si mette in ginocchio a chiedere aiuto all'Altissimo? Quando la stragrande maggioranza di governanti, scienziatoni, professoroni vivono come se Dio non ci fosse, pensano di, anzi, stanno pensando di costruire un mondo senza Dio. E stanno anche impegnando a farlo. I regali divini, morali e spirituali sono condizionati all'ubbidienza alla legge del nostro Dio. Regali divini, attenzione, vedete, materiali e spirituali. Anche materiali, a chi gli piace tanto la materia, sono condizionati. Dio non le fa queste cose qui usiamo il termine classico, al peccatore, peccatore in senso forte, non il peccatore in senso comune che ci siamo tutti peccatori, nel senso che siamo tendenti al peccato, siamo pieni di miserie, di imperfezioni e cose di questo genere, ma questo modo di essere peccatori non ostacola, dice il dono di Dio, ma il peccatore, quello che pecca volontariamente, a occhi aperti, quello non riceve niente da Dio, in questo senso. Ma l'uomo non vuole combattere contro la concupiscenza che lo trascina al peccato, riprendo la lettura, né agisce secondo logica. Se è vero che crede all'Onnipotente, perché non chiede il suo aiuto con verità, con umiltà e con perseveranza? Se crede all'Onnipotente. E qui vi invito, tanto per fare una cosa nuova, che lo faccio in continuazione, a ripensare agli ultimi 2 anni e mezzo. Chi è che ha chiesto aiuto all'Onnipotente? Chi è che si è fidato dell'Onnipotente prima di ogni altra cosa? E non andate a cercare espedienti e soluzioni umane di ogni genere, dalle reclusioni forzate ad altro. Tutti quanti rimedi umani, alcuni dei quali è possibile esperirli? Se uno vuole, faccia pure. Ma chi è che si è rivolto all'Onnipotente in primis, per sé e per tutti? Spero tanti, è una domanda che io mi faccio. Il mondo soffre più del dovuto per colpa della sua deliberata ribellione contro la volontà del Signore. Si vuole risolvere i problemi con mezzi mondani, con esclusione assoluta del Creatore. Ripeto, si ripensi agli ultimi 2 anni e mezzo. Per colpa della sua deliberata ribellione contro la volontà del Signore e risolvere i problemi con mezzi mondani, con esclusione assoluta del Creatore, che è una pazzia proprio, cioè fare una cosa di questo genere è, se noi potessimo vedere che cos'è questa cosa, questa è una pazzia assoluta. La religione si riduce ad una psicoterapia periodica di aspirine per calmare momentaneamente l'egoismo. Sempre esperienza da parroco, diceva: guardi padre, io non io vado a messa quando mi sento. Quando mi sento, vado, me la godo perché me la sento. Ma se io ci devo andare per forza tutte le domeniche, no. Perché? Psicoterapia periodica di aspirine. E ovviamente l'amore divino, vedendosi respinto, si ritrae per elementare delicatezza e i migliori piani vanno a monte. Se tu Dio non lo vuoi, ma lui non si impone, lui fa un passo indietro, lui è sempre un gran signore, ma chi avrà la peggio? Sei tu? E tanti bei piani suoi nei tuoi confronti andranno a monte. E se va a monte un piano divino per te o per me, poi quando dall'altra parte lo vedremo, a voglia piagne in purgatorio, speriamo, o peggio. Tuttavia nelle chiese, oppone Riccardo, c'è molta gente che prega. Sì. Ma di solito questa preghiera è abitudinaria, tiepida, pallida, timorosa, fiacca, quasi priva di fede e di carità. Una simile supplica non l'ascoltano nemmeno i capi politici, neanche i mendicanti la adoperano se vogliono ottenere qualcosa. Ma ci vuole un grande miracolo per convertire e guarire la società, riprende Riccardo. E allora chiedetelo sto miracolo. Voi da soli non lo potete fare, per più che vi suggestionate. Il difetto non è nell'Onnipotente, è in voi, orgogliosi e increduli, che non volete cadere in ginocchio e tendere le vostre deboli mani verso il Padre che è nel cielo. Viviamo nel tempo, cari amici, della crisi dello stare in ginocchio. Guardate in giro per le chiese. Io su questo, insomma, da quando arrivo come parroco, comincio da subito a... Diciamo che quando andai via dalla precedente parrocchia, dopo 10 anni di martellamento, in piedi durante la consacrazione non ci stava più nessuno. Ma 10 anni di martellamento ci sono voluti però, eh? Perché gli ultimi irriducibili a stare in piedi come Baccalà quando scende Nostro Signore dal cielo, ancora stavano in piedi, eh? Qui sono ancora soltanto sei e quindi stiamo ancora in combattimento. In ginocchio davanti a Dio. Davanti a Dio in ginocchio ci possiamo passare pure le giornate intere. Solo davanti a Dio e davanti a nessun essere umano. Non ci inginocchiamo dinanzi a nessuno. Ma davanti a Dio è un onore stare in ginocchio, oltre che un dovere. È un onore, un dovere e un piacere dire a Dio anche attraverso questo gesto: io sono nulla dinanzi a te, io ti supplico, io ho bisogno di te, tu sei più grande di me. E chi senza nessun motivo grave, vero, non si inginocchia davanti a Dio, diffidate, eh? Diffidate. Invece di amarvi tra voi con amore di carità come vuole il Signore, vi ostinate ad odiarvi apertamente o dissimulatamente, e quando credete di amarvi, siccome non lo fate con amore di carità, il vostro affetto stagna in un combattimento egoista. Ognuno prende quello che può dalla sua trincea. Logicamente, il nostro Dio non vi aiuta. E le funeste conseguenze di mettere da parte il Creatore piovono su tutti voi come grandine pesante. Guardate, questa è una grande lezione, questa qui. Non so se nella precedente puntata di Tenera Amata, non vorrei poi ripetermi, ma io ho sentito con le orecchie mie dire certe stupidaggini in occasioni di queste cose che adesso vanno di moda, le commemorazioni funebri dopo i funerali. Io personalmente sempre fuori dalla chiesa, rigorosamente, perché se proprio uno vuole, ma delle volte io ho sentito delle cose che poi uno sta zitto perché ti metti a fare lì in quel, dico, ma questi che stanno a dire? E mi immagino, perché insomma credo di avere la capacità, almeno un pochino, di rappresentarmi cosa può pensare una persona che è passata nel mondo della verità. Dico, se questi sapessero che tutte queste scretinate che stanno dicendo gli stanno dando un dolore immenso al morto, anziché consolarlo. Vabbè. Un miracolo personale ha bisogno di una supplica individuale. Un miracolo nazionale ha bisogno di un'impetrazione di tutto il popolo. Se i credenti di una nazione, cattolici, protestanti, cristiani e non cristiani, si unissero in una pressante supplica, sorretta da opere di amore e di carità, non di semplice umanesimo, si stupirebbero del meraviglioso risultato. La storia di Israele attesta l'onnipotenza dell'Altissimo. Ci sono degli episodi meravigliosi, questo lo vedremo, se Dio vuole, nelle catechesi bibliche. Quando si arriva al libro dei Maccabei, ai libri dei Maccabei, è uno spettacolo, quello che si inventa nostro Signore. Oh, adesso entriamo nel capitolo 10 e cominciamo a divertirci un po', perché Tenera Amata dice a Riccardo: e adesso ti invito a visitare San Luis Potosí, propose Tenera Amata. Riccardo: un viaggio col mio primo amore. Sul momento mi entusiasmai, ma in seguito compresi che un viaggio così, per un anziano acciaccoso come me, era quasi impossibile. Vedrai che non è così complicato, mi disse, insistendo col suo bello sguardo. Arriveremo a San Luis in meno di un millemilionesimo di picosecondo. Ricordiamo cos'era il picosecondo, perché se no dobbiamo sempre ripetere le stesse cose. Capite? Arriveremo a San Luis Potosí in meno di un millemilionesimo di picosecondo. Invece di fare delle obiezioni, approfitta dell'opportunità che ti offre il Signore di viaggiare con una celerità superiore alla velocità della luce, pur essendo ancora mortale. Perché, amici, guardate che queste sono le velocità che ci attendono in cielo, eh? Più della luce. La luce sono 300.000 km al secondo, eh? 300.000 km al secondo, eh? Vuol dire 6 volte il giro della Terra. Tu schiacci l'interruzzante del pulsante della luce, conti fino a 1 e quella luce che è partita si è fatta 6 volte il giro della Terra. Chiaro? Ma arrivare in quel posto in mille milionesimo di picosecondo è andare molto più veloce che la velocità della luce. Pensai ai problemi di viaggiare alla velocità della luce. Questo uno scienziato diceva, insomma, 300.000 km al secondo, falla per me, come facciamo? Se ad una velocità di 300 km al secondo la fisiologia umana ignora ciò che accadrebbe all'organismo, che succederebbe a più di 300.000 km al secondo? Continuano le obiezioni. Le predizioni delle moderne teorie relativistiche sono terrificanti. Ad una velocità superiore alla velocità della luce, la materia aumenterebbe la propria massa o forse si disintegrerebbe. A questo punto crollano le leggi classiche della fisica, il cui limite massimo è appunto la velocità della luce. Le linee diventano curve, insomma. Malgrado le oscure previsioni, Teneramata la si vedeva così bella, così radiosa e ottimista, che lasciò di preoccuparmi ciò che potesse accadere. Andiamo dove vuoi, mia bella morta, esclamai nel mio interno. Che se muoio per la strada, meno ancora ti perderò perché due saremo i morti. Lei di nuovo sfiorò con le dita il dorso della mia mano. Non seppi cosa accadde. Non sentii nulla. Quando mi resi conto, mi trovavo insieme a Teneramata sul marciapiede di un'angusta strada di provincia. Qui dovrei fare una parentesi, la devo fare, un po' erudita, antiscientista, in base a quello che ha detto Teneramata. Ora, può essere tranquillamente vero, adesso non so come sono arrivate oggi le teorie relativistiche, io ricordo quelle che ho studiato più o meno poco dopo che stavo scritto questo libro qui, a scuola, e poi un po' con un bravissimo professore di filosofia della scienza in seminario. La prosopopea della scienza di essere il Deus ex machina crolla, per esempio, dinanzi a un racconto di questo genere. Cioè, che tu viaggi, se tu dice. Se noi andassimo a 300 km al secondo, dice quest'uomo, dice, la fisiologia umana ignora ciò che accadrebbe all'organismo. Lo regge il mio organismo a 300 km al secondo. Le macchine di Formula 1, almeno fino a quando se ne sapeva qualcosa, andavano circa 300-350 all'ora. Gli aerei vanno molto, molto più veloci, no? Ma vanno circa a 1.000 km orari quando stanno in quota. C'erano una volta, ma li hanno tolti, gli aerei supersonici, come si chiamavano? I Concorde, mi pare, che andavano a una velocità superiore del suono che è 1.800 km l'ora. Però non possiamo andare troppo lontano. Ok, e anche insomma, gli armamentari che hanno i piloti di Formula 1, non è che tu potevi mettere a 400 all'ora così. Senza il casco, senza le cinture, senza che, ma anche senza un po' d'allenamento fisico, insomma, perché no, non ce la fai. Il problema è che qui siamo in un'altra dimensione. E che significa questo? È la relativizzazione delle scienze, che tra l'altro è stata fatta scientificamente, già a suo tempo, con la scoperta, per esempio, dello spazio curvo che relativizzò la geometria euclidea da alcuni grandi scienziati. Allora, per carità, la scienza ha delle cognizioni perfette, diciamo così, esatte, ma sono relative. Cioè relative a questa vita, a questa vita in questa terra, a queste condizioni, con questa atmosfera, con questa composizione dell'aria. Ecco perché non può mai avere la pretesa dell'assolutezza, cioè che Dio è uno e trino, amici cari, stare tranquilli che è vero qui, e se esistessero altri 100 miliardi di mondi possibili, dove lui si è manifestato, si è sicuramente manifestato come uno e trino, questo non c'è proprio nessunissimo dubbio. Ma le leggi della fisica che valgono qui, siamo sicuri che se esiste da qualche parte dell'universo un altro mondo dove c'è vita intelligente siano valide anche lì? Ecco ed ecco qui c'era anche tutto quanto il problema di Galileo, capite? Le verità scientifiche sono utili, per carità, e funzionano nel nostro mondo bene, ci consentono di fare bene alcune cose, ma stai tranquillo, figlio mio, eh. Non ti pensare a essere padre eterno. E non ti pensare che hai dato vita a un sapere assoluto in nome del quale si devono chinare tutti quanti e in primo il padre eterno. Perché Galileo affermava che le verità scientifiche, per la loro immediata evidenza e incontrovertibilità, sono superiori a quelle religiose. Perché non sono né incontrovertibili e né immediatamente evidenti. Non è incontrovertibile quello che io affermo. Cioè che Dio è uno e trino non è affatto incontrovertibile. Qualcuno potrebbe dire, ma chi l'ha detto? Io sono musulmano e per me Allah è uno. Che me lo può dimostrare? D'accordo? Quindi non sono né incontrovertibili né dimostrabili perché non sono evidenti. Ma, a differenza delle verità scientifiche, sono assolutamente universali. Vabbè. Chiusa parentesi, andiamoci a vedere sto viaggio. Lei di nuovo sfiorò con le dita il dorso della mia mano, sfiorò, bellissima questa immagine, non seppi cosa accadde, non sentii nulla. Quando mi resi conto mi trovavo in piedi, insieme a Tenera Amata, sul marciapiede di un'angusta strada di provincia. Eccoci a San Luis Potosí, mi assicurò col suo sorriso giovanile. È un miracolo. Ma no, è molto semplice. I mortali lo chiamerebbero miracolo perché supera le tecniche della scienza attuale. Invece per i beati non ha niente di prodigioso. È un viaggio celeste molto naturale e molto frequente. Poi vedrai come nella patria il più piccolo dei glorificati può viaggiare per propria capacità ad una velocità pari alla velocità della luce elevata alla potenza di un migliaio. Cioè, scusate, 300.000 km al secondo elevato a 1000. Sapete cosa sono le potenze, no? Alla millesima. Ah, se qualcuno è capace di scrivere il numero e prima della fine della diretta me lo dice, comincia a prendere carta e penna a farsi un pochino di calcolo. Attenzione, il più piccolo dei glorificati, l'ultimo, il fanalino di coda, il Calimero del Paradiso. Io mi fermo perché dico, ragazzi, questo è quello che ci aspetta, perché se andiamo in paradiso, vabbè, potremo raggiungere il Calimero. Questo ci tocca. Perché pure se scaliamo all'ultimo posto, se l'ultimo dei glorificati pia questo ci tocca sicuro, eh. Basta che ce la facciamo arrivarci. Beh, insomma, tanta roba, eh. Anzi, allora, Riccardo, è favoloso, tenera amata, anzi, è cosa da poco. Ci sono grandi santi che viaggiano con molta maggiore rapidità. È ovvio, sono andati al massimo nella vita terrena e vanno al massimo nella vita celeste. Immaginate se qualcuno fortunato che è devoto alla Madonna, la Madonna se lo porta a fare un giro. Vogliamo immaginare la velocità a cui viaggia la Madonna? E sentite che dice, quando loro ci invitano, quindi i grandi santi che vanno a palla, noi glorificati inferiori godiamo oltremodo. E qui c'è dietro San Tommaso d'Aquino, che pur in paradiso i glorificati superiori, e questo fa parte anche del loro essere superiori e della gloria che gli spetta, fanno contento, partecipano alcune delle loro cose ai glorificati inferiori, che però gli vengono partecipati. Nel senso che se te prende Padre Pio a fare un giro, tu ci vai, ma dopo che il giro è finito, tu quel giro non puoi rifarlo da solo. Ok? Ti devo dire che la celerità dei viaggi, come pure molti altri piaceri della gloria accidentali, dipendono, aprite bene le orecchie, dal grado di felicità ottenuto mediante la libera collaborazione della volontà umana con la volontà divina, fatta dal viatore in stato di grazia durante la sua vita mortale. Prendere questa frase, fare un bello screenshot per chi c'è il digitale, oppure trascriverla per chi c'è il libro e ricordarsela a memoria. Vuoi avere molti piaceri della gloria accidentale, e viaggiare alla grande? Ah, questo dipende da te, questo qui. Da quanto tu collabori liberamente, attenzione a liberamente, liberamente, eh? Liberamente. Dio non ti forza. Dio non ti forza. Io assisto in continuazione, no? A scene di anime che piano piano cominciano a conoscere quello che Dio, non soltanto quello che Dio vuole sotto forma di precetto, no? Ma anche ciò che Dio gradisce, ciò che Dio gradisce di più. E non lo fanno. Non lo fanno. Si trovano una montagna di giustificazioni, di cose a destra e a sinistra. Io a volte vedo queste cose perché e ne sono testimone, perché faccio il sacerdote, quindi le vedo. E mi viene tanta tristezza. Una volta, quando ero più giovane, per il bene di queste persone le sgridavo, le rimproveravo. Perché dico, ma brutto scemo, brutto scemo, brutta scema, perché non lo fai? Cioè, ti perderai delle cose meravigliose nell'altra vita e forse tante grazie anche in questa, ma non produce buoni effetti. Allora si tratta semplicemente di dire, vabbè, questo liberamente vuole far così, poi piagnerà, perché dopo piagnerà sicuro. Ogni lasciata soprannaturale è persa. Lasciate perdere le cretinate che dicono i mondiani, questo proverbio lo applicano ai piaceri anche più bassi, ogni lasciata è persa. No, no, ogni lasciata è persa sotto questo punto di vista. Piangeremo tanto, perché quello che non abbiamo fatto qui, poi non si può fare più, eh. Non si può fare più. Non te ne va a scappare, non rimandare. Se capisci che una cosa Dio la vuole, cioè, vabbè, ho capito, mo la farò. Non la farai mai se fai così. O anche, beh, perché procrastinare? Perché tardare? Perché perdere dei giorni in cui acquisire gloria maggiore in cielo? Come tu vedi, il nostro Dio ci glorifica con giustizia e munificenza. Dio è giusto. Questo mettiamocelo bene in testa, ma Dio è giusto non significa che Dio è giusto nel senso che castiga chi fa il male. No, Dio è giusto anche nel premiare il bene. Il nostro grado di gloria essenziale e accidentale in paradiso sarà rigorosissimamente proporzionato ai meriti che abbiamo acquisito. Dal minimo buon pensiero alla più grossa opera di carità o di evangelizzazione, o di immolazione o di penitenza che noi abbiamo fatto in questa vita. Rigorosissimamente. Io ribadisco queste cose qui perché se qualcuno ascoltando queste cose le prende sul serio e dice alt, è ora che cambiamo registro. Si fa un grandissimo regalo. Io non voglio grazie né in questa né nell'altra vita. Per me è semplicemente, se dovessi cooperare con il bene di qualcuno, per me è soltanto un onore e siccome il nostro Signore è contento è un onore doppio. Ma io non voglio niente, non voglio grazie, non voglio niente. Anzi, se arriva qualche persecuzione, meglio. Però queste sono cose fondamentali, queste qui. E ci devono entrare in testa. Chiunque sta ascoltando queste cose fa ancora in tempo, perché non è morto, è vivo. E quindi può ancora trarre tesoro da queste cose. Quindi la munificenza di Dio sì, Dio esagera nel ricompensare, ne esagera nel dare ed esagera pure nel ricompensare. Ma come non ti fa in questa vita grazie, miracoli né chicche se tu non obbedisci liberamente alla sua legge e alla sua volontà? Così tu non avrai un grande grado di gloria se tu non avrai collaborato tanto quanto puoi liberamente alla volontà divina, con la tua volontà umana. Guardate anche i termini tecnici che usa Tenera Amata, no? A proposito di divina volontà, sempre. Riccardo, è affascinante viaggiare a grandi velocità. Insomma, voglio dire, la velocità di questo mondo, cioè centinaia di chilometri all'ora. Ma come mai non ho sentito la vertigine della velocità? Ed invece a un tratto mi trovo qui. Dice Tenera Amata. Questo dice, oh, ci siamo, guardate che, state attenti, lui ci è andato veramente a questo posto, e adesso non so la distanza che c'era da dove stavano, da Città del Messico a San Luis Potosí, ma fossero stati anche 300-400 km, insomma, capito? Cioè, in meno di un battere d'occhio, insomma, tu rimani, dice, ma come fate ad arrivare fino a qua? Io non ho sentito niente. Ah, Tenera Amata risponde, innanzitutto perché in questo paratempo, ricordiamoci, il picco secondo è un paratempo, perché scorre su frequenze diverse rispetto a quello che è il nostro tempo, che è scandito dall'orologio, quindi dal secondo. L'unità di misura del tempo è il secondo, è da lì che possiamo poi andare a ampliarlo, minuto, ora, giorno, oppure frazione di secondo, decimo, centesimo, millesimo di secondo, nanosecondo, eccetera, eccetera. Quindi, in questo paratempo ti assiste uno speciale aiuto del Signore. Se tu avessi sperimentato la piacevole emozione di questa vertigine, che cosa sarebbe successo? Rispondete voi. Saresti morto di gusto. Morti di gioia. Cioè, alcune cose noi non le possiamo vivere in questo mondo perché non possiamo. Se le vivessimo, moriremmo subito. Come conoscere il nome nuovo di Tenera Amata, no? Non lo reggiamo qui. San Tommaso d'Aquino spiega che per reggere, per esempio, la visione beatifica, nessuno può vedere Dio e rimanere in vita, si legge nella Sacra Scrittura, no? Questa, ne, ne, ne, nessuno, non solo può vedere Dio, nessuno può gustare le cose soprannaturalmente divine di questo genere e rimanere vivo. San Tommaso spiega che quando andremo in paradiso, il Signore creerà nella nostra anima il corrispondente di quella che è l'abito della grazia santificante in questa terra, cioè quello che si chiama il lumen gloriae, si chiama così tecnicamente, il lume della gloria, ossia una capacità nella nostra anima e nelle facoltà di esse di poter recepire l'immensa beatitudine che ti viene dalla contemplazione diretta delle tre persone. Altrimenti no, esistono e sono fonte di immensa felicità, ma non abbiamo i recettori adeguati, le L'esempio più sciocco che si fa e banale è fissare la luce del sole a mezzogiorno d'estate, a occhio nudo, non ce la fai. Allora, innanzitutto quindi, se tu avessi sperimentato, saresti morto. E poi perché la distanza è stata minima. Le rapidissime accelerazioni a cui mi riferivo equivalgono a distanze di trilioni di anni luce. Elevati alla potenza di trilioni. Qui mi devo di nuovo rifermare. Se qualcuno di voi ha una app sullo smartphone, sull'iPhone c'è Mappa Stellare, che in parte è gratuita, ma poi costa una sciocchezza, si può divertire a puntarlo verso le stelle la sera e c'è vicino la didascalia e dice: ah, questa stella sta a 10 milioni di anni luce. Tu dici: ah, 10 milioni di anni luce, poca roba. Certo, poca roba. Allora, perdonatemi se sono un po' pedante, ma che cos'è un anno luce? Cioè, quanto sta distante? Abbiamo visto che la luce viaggia a 300.000 km al secondo. Allora, quanti chilometri è un anno luce? Devi fare 300.000 per 60 per avere un minuto luce. Poi devi fare questo numero per 60 per avere un'ora luce. Poi devi fare questo numero per 24 per avere un giorno luce e poi devi fare questo numero per 365 per avere un anno luce. Ecco, tutte queste moltiplicazioni, vedrai quanti chilometri sono. Stiamo già nell'ordine di, credo, qualche centinaia di miliardi, forse già stiamo nell'ambito dei bilioni o dei trilioni. 10 milioni di... Moltiplica questo per 10 milioni. Attenzione, le rapidissime accelerazioni a cui mi riferivo equivalgono a trilioni di anni luce. Trilione di anni luce vuol dire un miliardo per un miliardo per un miliardo di anno luce. Attenzione, elevati alla potenza di trilioni, cioè elevato potenza, quindi la potenza vuol dire che devi moltiplicare in maniera esponenziale. Cioè, questo ci fa anche già capire, perché se fanno questi viaggi, ma vi rendete conto quanto è grande l'universo? Noi siamo tutti questi scienziatoni che girano. Noi siamo nessuno in tutto l'universo, cioè la Terra nell'universo è zero, non esiste quasi, è come un atomo nei confronti di tutto quanto il pianeta Terra. Bella questa immagine, probabilmente è così. Sapete quanti atomi ci sono sul pianeta Terra? Insomma, un atomo è la particella elementare della materia, quindi... Ma... Capito che ci aspetta? E che ci starà in questi posti qui? E che ci sta? Che c'è in giro? Dopo qualcosa, Terra Amata la racconta, qualcosina. Allora, ribatte Riccardo. Ma è davvero arretrata l'astronomia, dissi tra me. Mai avevo letto che esistesse una distanza di un trilione di anni luce. Mi sarebbe piaciuto sentire la piacevole vertigine della velocità della luce, per quanto fosse nella breve distanza del nostro viaggio, ma mi accontentavo abbondantemente di ciò che mi concedeva la mia amata morta. Allora, queste affermazioni fanno anche comprendere un altro limite della scienza umana. Che si pensano di essere, che la scienza umana è sempre perfettibile. L'astronomia, perché noi siamo limitati, per quanto costruiscono i telescopi, le astronavi, dove doveva arrivare? Se uno viaggiasse alla velocità della luce, ma sì e no che si affaccia fuori dalla Via Lattea se dovesse stare in giro per tutta la vita. Che è la nostra galassia. Ecco, riprende tenera amata. A te manca di scorgere l'immensità di cui godrai nella patria, mi disse. Ti raccomando di sdraiarti in una notte serena in un luogo molto elevato, dove non ci sia l'ostacolo di alberi o di edifici, e di contemplare per lungo tempo il fiume di diamanti, silenzioso e musicale del firmamento. Ammirerai e sentirai la nostalgia dell'infinito. Vedete, qui gli sta suggerendo di fare un bel giro tra le stelle in una bella notte di estate. Per chi conosce la Divina Volontà capisce che significa, no? Dove stiamo? Mi domandò Teneramata. I miei ricordi erano confusi, ma rievocai quella strada selciata. Vidi poco più in là la piccola piazza di Lignan. Sì, eravamo in via dell'Indipendenza, saranno state le 5 del pomeriggio. Osservai il mio abito. Avevo le pantofole. Il collo sbottonato e la giacca da casa, rossastra e tanto logora. Non so perché mi viene alla mente di pensare come erano vestiti i beati. Il vestito di tenera amata, semplice ed elegante, era moderno e di buona qualità. Ma i glorificati di altre epoche? Immaginai che usavano tuniche e mantelli, come al tempo di nostro Signore Gesù Cristo. Oppure che con i loro formidabili poteri vestivano come a loro venisse voglia. Non ti piace il mio abito? Mi domandò con accento di preoccupazione. È molto bello, è molto bello. Comunque compariresti bene con qualsiasi veste. Non ti meravigliare per quanto sto per dirti. Noi beati non usiamo nessuna veste. Non ne abbiamo bisogno, né per proteggerci dal cattivo tempo, che non ci raggiunge se non per goderlo, né per coprire i difetti fisici che nel cielo non esistono, né per verecondia, già che nella gloria non c'è malizia, e tutti siamo impeccabili. Vedi, per venirti a trovare, io stesso ordinai agli atomi, sentite come si è fatto il vestito, che si organizzassero, che si combinassero e si organizzassero per formare il mio vestito. Ed essi mi obbedirono con piacere, al modo loro, è chiaro. Ma forse sbagliai e mi risultò una veste ridicola. Certo, la mia concupiscenza di mortale esaltò la mia immaginazione, che capiamo quello che sta dicendo, e non so come dire, mi innamorai ancora di più della mia amata morta. Lei per se stessa così bella e attraente, persino vestita alla maniera nostra mondana, mi pareva più bella della migliore attrice di cinema o della ideale Elena di Troia. Spero che nessuno abbia fatto pensieri tipo Riccardo, che qui confessa, dice. La mia concupiscenza di mortale esaltò la mia immaginazione. Noi dobbiamo pensare che stiamo in un'altra dimensione. Qui non possiamo andare in giro nei campi nudisti, perdonatemi l'uscita un po'. Non si può. Non è possibile. Né si può andare in giro nudi, come dovrebbero imparare qualche signorina e reimpararla bene, neanche con la scusa del caldo. Non si può. Perché c'è una cosa che si chiama concupiscenza. C'è il peccato. C'è la malizia. Qui siamo interdizione. Noi non possiamo anticipare sulla terra comportamenti che si hanno nel cielo, perché nel cielo il peccato non c'è, nel cielo la malizia non c'è. D'accordo? Difetti, cioè in cielo siamo tutti quanti statuari bellissimi. Non scherziamo su queste cose, non minimizziamole, non prendiamole alla leggera. Noi beati non usiamo nessuna veste, non ne abbiamo bisogno, non si soffre il freddo né il caldo. Non, cioè, si può guardare la bellezza. Cioè, allora, amici, facciamo uno step indietro. Il corpo umano di per sé, sia maschile che femminile, è creato da Dio. Quindi di per sé, è sommamente perfettissimo e non c'è niente da nascondere di per sé. ma c'è il peccato originale. Sapete che c'è un aneddoto attribuito a un papa, forse Giovanni XXIII, che pare che ci fosse stata una signorina un po' sfrontata che abbia osato andare a pranzo dal papa con abiti leggermente succinti. Qui siamo negli anni 60, d'accordo? Non siamo oggi. Allora, si narra sempre questo aneddoto che il papa chiama un cameriere e gli dice di portare una certa cosa a questa signorina un po' invereconda. Insomma, questo gli porta un vassoio d'argento, glielo porta, lo faccio breve che dobbiamo chiudere, questo è da parte del sommo pontefice. Apre sto vassoio e c'era la famosa mela rossa. Dice: grazie santità del pensiero. Questa non hai capito, dice: prego figliola, la mangi. Perché solo dopo aver mangiato il frutto proibito, Emma si accorse di essere nuda. Questo ci fa capire un pochino. Qui non si può. Qui non si può. Tante cose che descriverà tenera amata non si possono vivere sulla terra. È impossibile. Quando verrà il regno della divina volontà? Mistero, chi lo sa? Io a occhio che sia proprio possibile tutto quello che vede Terramata, faccio fatica, però questo lo sa soltanto il nostro Signore. In ogni caso, in presenza di peccato, di corruzione, di malizia, queste cose le dobbiamo scordare. Ed ecco perché si è fatto il vestito. Avete visto come si fanno i vestiti? Gli atomi ubbidiscono, si compongono e gli vanno addosso. Tanta roba, eh? E lei diceva, ma forse ho sbagliato qualcosa e sti atomi l'ho aggregati male, magari risulto ridicolo. Bellissima, più di una star di Hollywood o di Arena di Troia, insomma, il che non è poco. Ci vediamo alla prossima puntata, amici. Dio benedica. E la Madonna sempre vi protegga.